avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale, qui me fut fatale, de femme fatale, qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail. Questa mattina ho un'immensa responsabilità sulle spalle. Accompagnerò l'umanità verso l'apertura di un portale che condurrà tutti in una dimensione parallela. Sì, perché ormai lo sapete, è notorio. Oggi è il giorno super palindromo, il più palindromo dei palindromi, l'11/11/2011, accadde soltanto una volta nel 1111. Era un sabato del Medioevo, non sappiamo, non abbiamo memoria di cosa fecero allora gli uomini. Sappiamo cosa vogliono fare oggi. Alle 11:11 dell'11/11 del 2011 faranno le grandi catene dell'amore. Ci sono persone che si stanno radunando impropriamente, perché gli archeologi e custodi della zona lo vogliono impedire, attorno alla grande piramide. Altre non so cosa stanno facendo. Ho il mio profilo Facebook pieno di persone, mi diranno: mi raccomando, alle 11:11 devi guardare il sole, fatti trapassare dal sole, fai un pensiero d'amore, apriti la nuova dimensione. Ecco, io non che sia scettico, sono qui che aspetto il raggio di sole che mi trapassi, mi porti in un'altra parte. Aspetto lo Stargate che si apra e gli omini verdi dall'altra parte nel raggio di luce mi dicono: vieni, vieni, vieni. Accadrà questo alle 11? Beh, qualcuno se lo sta aspettando veramente. Sono giorni e giorni che ne parlano i giornali, ma soprattutto in rete c'è un video fantastico su YouTube. Si vede, inizia con un controcampo di capelli biondi mossi dal vento, ragazza bellissima, con il mare impetuoso davanti. Poi vediamo che lei tiene la mano a un altro ragazzo bellissimo, che a sua volta tiene la mano a un altro bellissimo signore, e c'è una catena di persone che si snoda attraverso foreste, deserti, giardini, città meravigliose, non c'è nemmeno una macchina parcheggiata. Tutti sorridono, tutti multietnici, di tutti i colori possibili e immaginabili, gnocchissime ma virgine nella loro gnoccheria. Perché? Perché sorridono, si tengono per mano, e questa è la catena umana dell'amore che attraversa il mondo. Perché? Perché aspettano l'11/11/11. Esistono delle profonde realtà dietro questo numero, delle realtà numeriche probabilmente, che cercheremo di sviscerare questa mattina. Avremo anche un supporto e un aiuto che ci ricondurrà alla razionalità, perché noi sul ciglio del precipizio, di fronte a quel portale spalancato, potremmo essere per un attimo presi dal dubbio e forse magari tornare indietro e lasciare che vadano gli altri verso l'altra dimensione. Beh, a me interessa cosa farete voi da adesso alle 11:11 minuti. Naturalmente le 11:11 saranno territorio di Nicoletta Carbone, che vi parlerà di prostate e di emorroidi, ma avrete tempo di fare il salto nel grande portale 800 24 00 24. Nella smorfia il numero 11 sono i topi. Nella cabala ebraica corrisponde alla lettera Kaf, col significato generico di realizzazione. Nell'esoterismo e nella magia in genere è considerato il primo numero mastro, essendo primo numero di una decade numerica nuova, 10+1. In generale significa un forte cambiamento a fronte di una grande forza, e nei tarocchi l'arcano maggiore numero 11 corrisponde infatti alla forza. Tutti siamo diventati esperti numero 11 in queste ultime settimane. Le prime reazioni su Facebook: Laura si farà un caffè, Monica andrà a scuola, Omar che cazzo di domanda è? Lavoro. Ah, beh, questo è uno scettico, colui che non sa cosa si perderà alle ore 11:11. Fabio finalmente attraverserà il portale, Giulia farà un sacrificio umano, Vincenzo, la solita cosa, lavoro, lavoro, lavoro. Quanto siete banali, monotoni. Come mai non prendete il messaggio di tutti coloro che alle 11:11 faranno qualcosa? 800 24 00 24. Non prenderò in giro nessuno, non irriderò, non farò lo scettico, il cinico, il disincantato, ma raccontatemi, spiegatemi esattamente qual è il rituale della trasmigrazione verso il portale dell'11:11:11 alle 11:11. Nel cristianesimo 11 è il numero degli apostoli rimasti prima della passione. morte e resurrezione di Cristo, e che potrebbe assumere il significato esoterico di un imminente evento, di un cambiamento. Recenti e frequenti eventi legati al numero 11, ad esempio l'11 settembre o l'11 marzo, a quest'ultima data si aggiunge anche il terremoto in Giappone nel 2011, lasciano molto pensare gli appassionati di esoterismo e di studi nell'ambiente della New Age. 800 24 0024, tutti mi stanno continuando a scrivere e spero che qualcuno telefoni. Io lavoro, vedete, siete abbrutiti dal lavoro, pensate soltanto al lavoro, perdete una grande occasione che accadrà probabilmente fra altri 1000 anni. Chi avrà mai tempo comunque di seguire e varcare il portale? Ma ci credete veramente al portale? Io sono convinto che di dimensioni parallele ne esistano a fantastiche fantamigliaia. Se questa fosse l'occasione per varcarne una, perché tirarsi indietro? Valerio Sanfu, buongiorno. Buongiorno. È un sociologo, autore del libro La natura dei numeri, i numeri della natura, compendio di numerologia, Aemetra Editore. Esatto. In questi giorni saranno in molti a consultarla, so che tutte le persone comunque hanno approfondito il significato recondito dei numeri, sono i personaggi più richiesti. È veramente importante, secondo lei, questa coincidenza di 11? Ma non esiste, nel senso che dobbiamo tener conto che la numerologia, che nacque con il grande Pitagora, tratta i numeri non sotto l'aspetto matematico, è giusto il giorno, il mese, ma purtroppo l'anno non porta al numero 11, bensì al numero 8, quindi io le 11... È una forzatura. È una grossa forzatura, se mi posso permettere, dovuta all'ignoranza. Ma noi siamo qua proprio per mettere lumi. Una ignoranza numerologica, non matematica. Ci viviamo nella New Age dove le cose si fanno pressa poco, e in questo caso io potrei dire che il 12-12 del 2012 dal numero 11, guarda caso ancora una volta, ma non sicuramente. È quello che mi ha detto questa mattina mio figlio, mi ha detto scusa perché l'anno prossimo non è la stessa cosa. Ha detto. L'anno prossimo è veramente dall'11 secondo la numerologia. Ma l'anno prossimo dicono è quello della fine del mondo, quindi. Ma non c'è anche lì, c'è un grossolano errore, perché l'11 del prossimo anno è un pochino più complesso. Sta di fatto che siccome l'11 supera la decina e quindi va oltre a ciò che è permesso al numero 10, genera se stesso che non potrebbe farlo essendo un palindromo, ma oggi non c'entra, oggi veramente l'11 diventa 2 nella somma teosofica, nella riduzione teosofica, l'altro 11 diventa 2, il 2011 diventa 4 e quindi abbiamo 8, dovremmo parlare oggi casomai di giustizia, probabilmente prima o poi l'uomo comincerà a capire, può darsi che succeda oggi, che l'iniquità presente, che ne so, in questo mondo è la protezione. Ma tutti i parallelismi che hanno fatto con i tarocchi, che la forza, tarocchi, la donna. La forza di nuovo una carta altamente positiva. Io scrissi, ma negli anni 80, l'aspetto iconografico dei tarocchi, quindi sono anche un esperto in quello. No, la forza che chiude la prima strada formata da 11 parti e di nuovo una carta positiva, ma oggi non è l'11. Quindi lei è molto scettico, quindi tutta questa montatura fantagiornalistica, ipermediatica, super cross internetica è semplicemente una grande fuffa, serve un pochino. Sempre, bisogna aggiungere comunque notizie che permettono ai giornali di scrivere. No, anch'io ne ho scritto perché mi dava gusto, era divertente. Hanno intervistato i matematici, che non c'entrano nulla i matematici, i matematici hanno detto delle cose, ovviamente rinnegando qualsiasi attribuzione. Pur di essere intervistati, farebbe qualunque cosa. Lei pensa che oggi davanti alla Grande Piramide ci sono persone, già si riunirono tipo 20 anni fa, 20 anni fa cominciarono ad aprire il portale e ci sono le foto di questi tutti vestiti di bianco che passeggiano e fanno i girotondi dell'amore, e oggi vogliono rifare il girotondo dell'amore davanti alle Grandi Piramidi per chiudere questo portale, sennò escono gli UFO, non so che. Nicolas da Milano, buongiorno. Buongiorno. Che succede? Lei è pronto a saltare oltre il grande portale? Ma faccio un discorso un tantino più banale, però che mi colpisce molto. Sentiamo. Da noi in Inghilterra tutti da diversi giorni, politici, gente per strada, tutti, portano un piccolo papavero rosso. Questo perché stanno tutti aspettando l'undicesimo giorno dell'undicesimo mese, e allora 11, perché tutti gli anni tutti si fermano in questa data per commemorare la fine della prima guerra mondiale. Ma lo fanno tutti gli anni? Sì, tutti gli anni. Lo fanno anche oggi. In particolare quest'anno qua. Diciamo, tra quelli che passeranno il grande portale, gli inglesi avranno il papavero rosso, si riconosceranno. Esatto. Esatto. Questo è interessante. Marco da Brescia. Sì, ciao. Cosa devi obiettare? Per la trasmissione innanzitutto. Tu salterai oltre Grande Portale o no? Ma guarda, io volevo smontare un po' il tutto, anche perché... Ma sono scettici, ce ne fosse uno... No, non è una questione di scetticismo. Di coloro che hanno fede. Perché l'11-11-2011 non è palindromo. L'ha detto anche il nostro sommo esperto sociologo. L'11 febbraio 2011, 11-02-2011. Lo dico perché ci sono nato l'11 febbraio, quindi quest'anno, oltretutto compiendo anche 44 anni, era il massimo del palindromo che mi fosse mai capitato. Valerio Sanfo, è giusto quello che dice l'ascoltatore? Sì, giusto, è vero. Quindi l'11 febbraio del 2011 è il giorno palindromo per eccellenza. Certo. Come lo sarà, non so quando ne capiti un altro, però per eccellenza il numero palindromo è quello. Quindi parte tutto da una grande mistificazione il giorno 11-11. Sì, da un po' una forzatura. Io non vorrei togliere speranze. 800-24-0024. Voi che state lì, con il sole in faccia, nella posizione del loto, vestiti di bianco, con l'incenso in mano, cosparsi di unguenti profumati, che state respirando, state allucinando i vostri chakra, non so bene cosa esatto, mi raccomando, telefonatemi, ditemi esattamente quando si aprirà il portale e raccontatemelo. Intanto Beppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Io pensavo di averti come ultima chance, estrema stampella della razionalità, ma invece vedo che andiamo in tutt'altra direzione. Cosa vedi te dietro questa ossessione generalizzata e mediatica della numerologia? Ma io la contestualizzo nel quotidiano, cioè secondo me noi siamo incalzati, bombardati, oppressi dai numeri nel nostro quotidiano banale. I numeri sono le bollette, sono i canoni, sono gli estratti conto, sono i conti del condominio. La borsa che sale e scende. Adesso io penso che scopro l'acqua calda quando dico che ormai anche la casalinga di Voghera e il pastore Lucano sono estremamente aggiornati sullo spread fra il Bund tedesco e il BTP italiano. Il problema è che tanto più questi numeri ci inchiodano, ci assillano, ci angosciano, ci fanno vedere degli orizzonti bui, tanto più benvenuto, salvifico è la prospettiva, la possibilità che si apra uno squarcio, ci sia una via di fuga, che ci sia qualcosa di altro in un mondo parallelo che mi si apre oggi alle 11 e che mi affranca, mi libera, mi svincola da questa quotidianità sempre più grigia. Sì, ma abbiamo un'ora scarsa di speranza. Alle 11:11, se non accade niente, cosa facciamo? Ci attapiriamo tutti perché non si è aperto il portale. Ma voglio dire, il problema è che io mi ricordo quando una decina d'anni fa doveva esserci il baco del millennio che avrebbe bloccato tutto. Certo, il fatto che mi sembra che torniamo, abbiamo anche bisogno di questi rituali e di queste cose. A me fa molto più pensare, forse perché sono è un limite mio individuale, il fatto che ho letto sul sito del Wall Street Journal che assicurare i titoli di Stato italiani, se tu li compri a Wall Street, costa 5 volte di più che assicurare i titoli di Stato della Colombia. Allora questo non so quanto sia numerologico, per me è angosciante parecchio, perché mi dà l'idea di un paese in cui, come in quella trasmissione televisiva, la pizza di fango del Camerun possa diventare presto la currency, l'unità di misura monetaria. E per questo probabilmente molti aspettiamo l'apertura del grande portale. Salvatore da Napoli invece l'ha girata a modo suo e comunque dà un senso positivo a questo giorno. Cosa farà Salvatore? Buongiorno a tutti voi, essendo napoletano mi avete provocato, sentivo questa trasmissione stamattina. Beh, sì. Io alle 11:11, quindi tra poco più di 40 minuti, io vado a giocarmi tre numeri all'otto, bel terno secco. Ci sarà la fila però, faranno tutti la stessa cosa, penso, no? Vabbè, allora mi anticipo un poco. Gioco l'11 che è il giorno, il 20 che sarebbe 2011 e 24 in onore della vostra radio. Allora guardi, mi piacerebbe, se lei fosse così gentile... Prima che noi chiudiamo la trasmissione, quindi entro le 10:55 circa, se sta già in fila alla ricevitoria, ci chiama e ci dice, la richiamiamo noi verso quell'ora. Vabbè, quanta gente c'è? La chiamiamo quanta gente c'è, noi la richiamiamo un po' prima della fine, tanto il telefono ce l'ha la nostra simpatica Lidia Dell'Oro, quindi la chiameremo senz'altro. Salvatore da Napoli ha parlato e quindi in questo punto io vorrei introdurvi una persona che in realtà, non voglio dire sia confidente nel grande portale dell'11, ma è stata toccata nella sua vita dal numero 11, è stata toccata in un luogo particolarmente segnato dal numero 11, che non è proprio vicino, ma sta in Argentina. A Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo. Francesca Bellino, buongiorno. Buongiorno. Francesca Bellino, non voglio che tu faccia la parte di coloro che varcheranno il grande portale, ma in qualche maniera tu sei stata lambita dal senso misterioso e profondo del numero 11 al quartiere 11 di Buenos Aires, che è il quartiere 11 in cui sei arrivata l'11 di un giorno, di un mese 11, e hai iniziato a seguire un percorso fatto di numeri 11. Cos'è accaduto? Ma ho seguito degli indizi, mi sono lasciata trasportare dalle coincidenze e forse un po' anche condizionata dalla narrativa di Borges, mi sono persa in questo labirinto di Once. E in realtà poi è tutto accaduto veramente per 2 anni di seguito, un 11-11. Il primo anno sono arrivata per caso e ho scoperto questo quartiere che originariamente si chiama 11 de settembre, per una data collegata però a un 1852, molto più antico del 2001, che è il nostro 11 settembre. Di riferimento, che poi naturalmente per abbreviazione viene chiamato solo 11, e quindi mi sono trovata in questo quartiere. 11 in italiano è 11. Dietro l'11 ho incominciato a scoprire diverse cose. Intanto che il quartiere ebraico, e quindi per la Cabala il numero 11 è denso di significati, perché anche il prefisso Buenos Aires è 011, come sì, Torino, sì, altra infatti, città magica. Da qui poi nasce anche il titolo del libro, Il prefisso di Dio. Sì, ha scritto un libro su questo, Il prefisso di Dio, storia e labirinto di 11 di Buenos Aires, libro che appunto con prefazione di Luis Bacalov, che ha una fantastica ricerca dell'undicesimo comandamento nel quartiere 11. Andiamo avanti sulle coincidenze dell'11 di Buenos Aires. Abbiamo sentito anche un tango. Il tango è legato al numero 11? Eh sì, a Buenos Aires l'11 dicembre si festeggia il Dia Nazionale del Tango, perché l'11 dicembre è il giorno in cui è nato Carlos Gardel, 1890. Infatti stavamo ascoltando un tango di Gardel che ci ha portato quindi in questa atmosfera del tango. Il tango in realtà nasce proprio a 11, perché il tango nasce dall'incontro di più culture, c'è anche la cultura ebraica, tant'è che il violino che si usa tanto nel tango è stato portato a Buenos Aires proprio dagli ebrei a fine 800 inizio 900. Il maestro del tango pure è nato un giorno 11. Julio De Caro e tanti altri. La cosa interessante è che però molti di questi sono ebrei, ma avevano dovuto cambiare nome per non farsi riconoscere, per essere accettati dalla società, che però società oggi multietnica e plurale, modello per tutte le società possibili, e per questo l'undicesimo comandamento nella mia narrazione letteraria diventa l'idea di una nuova regola per le società che si stanno trasformando. E direi che comunque dietro il numero 11 ci può essere questa parola cambiamento. Niente di mistico, niente di esoterico, ma semplicemente un invito a pensare che siamo in un'era di trasformazione, siamo in un interregno, niente più come prima e niente sarà come ieri, e quindi stiamo cambiando anche noi insieme a questa... Ecco, poi continueremo con te Francesca, ci racconterai di più le coincidenze dell'11. Quindi sei dalle parti di persone che comunque nel loro contatto con il numero 11 qualcosa legato al cambiamento hanno visto. Scettica invece Marilena da Torino. Marilena, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Anche sulla sua testa, però Marilena, sulla sua testa pende il prefisso 011, come vuoi lo sapere. Esattamente, e quindi... l'11 io condivido in parte quello che ha detto la signora che mi ha preceduta, l'11 significa un grande cambiamento. E che cambierà per lei fra pochi minuti, un'ora scarsa? Per me cambia poco, perché io mi trovo in coda, come sempre, sto percorrendo la strada che da Milano porta Lecco. In coda, come sempre, quindi sì. Io mi auguro che cambi qualcosa anche su questa strada. Perché cioè veramente... se si apre il varco del grande portale a dimensione parallela, tutte le macchine finiscono dentro. Questo spero. Magari. E poi volevo anche ricordare l'11 di febbraio, che è il giorno dell'apparizione della Madonna di Lourdes. Ah, vedi, c'è un altro 11 legato appunto alla mistica che è molto importante. Penso che un po' di religione non manchi. Non fa mai male, io certo. Lo sono molto, credo molto in Dio, nello Spirito Santo, e qualcosa deve cambiare, perché io sono sempre in attesa della venuta del Messia. E aspettiamo anche, bello, quello non era già venuto. Scusi, la seconda venuta. Vabbè, adesso entriamo in dei terreni teologici che non riesco a contenere, a gestire. Mi sembrava che una fosse già stata per la nostra salvezza più che sufficiente. Comunque, se lei aspetta nella seconda, va bene. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des... Sono le 10:34 minuti e 30 e 40 secondi. Siamo qui in religiosa attesa che si apra il portale del giorno iperpalindromo, ma in realtà è falsamente palindromo, come ci dicono i nostri esperti, che è proclamato da tutta la stampa mondiale. Addirittura Repubblica, che è il più laico dei laici giornali, oggi ha fatto una foto, un concorso fotografico sui suoi lettori, cioè, scattate una foto l'11/11 alle 11:11, mandatela a Repubblica, bloccheremo questo attimo fatale. Francesca Bellino, che è la scrittrice che è qui accanto a me, assieme a Beppe Neri, lo psichiatra di fiducia che ci segue sempre in ogni nostro pensiero, in ogni nostra azione, mi ricorda un'altra singolare coincidenza. Francesca Bellino è stata fulminata dal numero 11 al quartiere 11 di Buenos Aires, ha scritto Il prefisso di Dio, che è un romanzo dedicato alla ricerca dell'undicesimo comandamento, quindi fa parte di quelle che aspettano l'apertura del grande portale. Mi ricorda però una laicissima ricorrenza che si festeggia soltanto a Roma. Che festa è oggi? È la festa dei cornuti. Oggi San Martino per i romani è la festa dei cornuti. Come il santo divise il suo mantello con il mendico, anche il cornuto divide la moglie con il primo che passa. E c'è una singolare corrispondenza: il cornuto ha due corna sulla testa, quindi ha un 11 sulla testa, quindi l'11/11/11 alle 11:11 chi è cornuto, e lo saremo tutti probabilmente, avrà un'occasione in più per varcare il grande portale. Noi abbiamo sorriso su questa cosa. Remo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per averci chiamato. Ascolta, io volevo intervenire. Cosa festeggia oggi? Ah, è un giorno normale, giorno quotidiano, normalissimo, sì. Non c'è mica niente da festeggiare, sai, oggi. Io volevo farti un paio di domande. Ma, dato che da qualche parte del mondo l'11/11/2011 le ore sono già passate, ma là il portale si è aperto? Questa è una bella domanda. Ho le agenzie aperte e non risulta che ci sia stata nessuna apertura di portale. La seconda domandina, ma chi ha previsto la fine del mondo che noi tanto siamo lì a bocca aperta ad attenderla? Ma come faccio a credere a quelle persone che non hanno prefisso, che non hanno previsto la sua scomparsa dal mondo? Ecco, anche lì mi sa che sia più che bufala. Ha ragione, uno prevede la fine del mondo e non prevede la sua. Lo so, questa è rivolgerla a Giacobbo, il grande esperto in 2012, direi. Ma Giacobbo, io su Giacobbo ci ho messo la classica pietra sopra, mi ha detto tante informazioni inesatte che l'ho messo lì in un angolino. Vabbè, riemerge sempre più forte e gagliardo che prima. Valerio Sanfo, sociologo, autore di un libro La natura dei numeri, i numeri della natura, compendio in numerologia. Ne sono state dette di cose sui numeri in questi ultimi 20 minuti, però vediamo di riportare un po' nei termini della correttezza. La numerologia non è che sia proprio esattamente una stupidaggine, qualcosa che permette di aprire orizzonti sconosciuti e interstizi che stanno dietro i numeri, ma trattata in maniera così sciatta e così mediatica, me ne prendo tutte le responsabilità. Lei lo considera un oltraggio a quello che è l'oggetto del suo studio? Senza ombra di dubbio. Ricordiamoci che tutti i grandi matematici e filosofi, basta oltre Pitagora, ricordiamoci Sant'Agostino. Sant'Agostino si occupava di numerologia e per lui l'undici era l'armadio del peccato. In che senso? Data per compiere i malefatti collettivi. È il giorno che dà più gusto, è l'11, quindi è vero la festa dei cornuti. Le cose sbagliate, le cose contro natura. Quindi le mogli fedifreghe sanno che oggi è il giorno che dà più gusto tradire il marito. Sant'Agostino mica scherzava. Le corna sono simbolo di esoterismo, quindi. Questo per consolarci possiamo dire. Puntano verso l'alto, se va bene. Giusto? Sì. Va bene, sì. Quindi è un'ulteriore conferma che in realtà dietro questo numero 11 si nasconda qualcosa, ce lo dice anche il sociologo Nicola da Cagliari. Nicola. Buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire nella vostra bellissima trasmissione. Lei aspetta l'apertura del grande portale? Sì, in un certo senso. Lo dica, si deve vergognare. Mi sento coinvolto, sì. E cosa fa di particolare? Cosa farà alle 11:11? Dunque, rivolgerò il pensiero a questa vicenda che sto per raccontarle. Ecco, lo dica. Dunque, io mi trovavo nel 1983 in Brasile, alla ricerca di un mio fratello che avevo perso di vista per vicende familiari, tanto tempo. Sì. Bene, mi sono rivolto al canale 11 di Rio de Janeiro, sono andato in trasmissione, ho mandato l'appello, ho raccontato la vicenda. Ebbene, io sono riuscito attraverso la rete televisiva a rintracciare mio fratello. La cosa mi ha molto commosso e anche esaltato, perché oltre a osannare l'efficienza e l'utilità di... Però era il canale 11, non era del tutto secondario questo fatto. Indubbiamente no, perché in fondo è stata una mia idea, una mia scelta. Mi sono informato, ho chiesto quale fosse il canale più, diciamo, adatto a trovare i fratelli, era l'11. Sì, esatto, sì. E quindi il canale 11 per me racchiude una memoria, diciamo, molto intima, molto personale. Giuseppe, ecco. Neri, mantieni la serietà. Adesso mi rendo conto. Aspetta un attimo, aspetta, Giuseppe, ti do un altro caso clinico. Roberta da Treviso. Buongiorno. Sì, Roberto. Niente, volevo dirle, siccome oggi sono già intervenuti due ascoltatori, uno era nato l'11 febbraio. Sì. E la signora ha ricordato che l'11 febbraio era la Madonna di Lourdes. Certo. Il figlio è nato l'11 febbraio. E quindi, benedetto. Io ho moltissime coincidenze nella vita. Ad esempio, io ho una data di nascita che, vabbè, adesso non sto qua a dire. C'è un mio amico che ha lo stesso nome e cognome mio. Sì. E praticamente si è comprato una macchina con le vecchie targhe, una volta targata Ravenna, sì, che noi siamo di Treviso, con la mia stessa data di nascita nella targa della macchina, e a lui stesso nome e cognome mio. Quindi voi siete i primi a varcare, sarete i primi a varcare il grande portale. Penso proprio di sì. E cosa farà lei? Si è preparato lei? Si è fatto la doccia? Si è vestito di bianco? Sì. Benissimo. Sono tutto a posto, sono auguri. Beppe Neri, adesso torniamo un attimo allo spirito razionale che anima i nostri pensieri. Dietro queste ossessive ricerche delle coincidenze numeriche, è possibile rintracciare in maniera bonaria comunque qualcosa che in realtà, qualche intoppo nella fluidità del nostro raziocinio? Cioè, siamo matti se ci fissiamo su queste cose? Beh, no, il discorso è che, forse rifacendoci a quello che dicevamo prima, in momenti di crisi diffusa, di grande incertezza, di grande anche angoscia per la vita quotidiana delle persone e delle famiglie, tutte quelle procedure, tutti quei rituali, tutti quei comportamenti che hanno comunque un contenuto di autorassicurazione contribuiscono in maniera importante a rafforzare le nostre barriere, a fare in modo che il nostro castello sia presidiato da ponti levatoi ben efficienti, e che tutto ciò che può essere perturbativo, tutto quello che può inficiare le poche sicurezze che ci sono rimaste, sia ben al di dentro delle mura del castello. Quindi alcuni rituali sono finalizzati alla autorassicurazione, perché la verifica della corrispondenza tra le mie aspettative mediante questa liturgia dei conti, dei numeri, mi consente di sentirmi un pochino meno in balia, in preda, assolutamente... un meccanismo molto arcaico questo. Gli antichi ma molto cercavano radicato. Il segno di Dio nel numero degli uccelli che ci volavano a destra, nelle foglie, sì, che cadevano. Ma tu giustamente poi implicitamente, mi permetto di presumere, voglia inserire sotto traccia l'idea dell'abile confine fra questa, che è una situazione fisiologica che serve anche a rinsaldare le nostre barriere, e lo sconfinamento che consiste nella situazione in cui questo diventa talmente pervasivo, talmente riempie la quotidianità e l'esistenza delle persone, che allora ci troviamo in condizioni in cui, se questo diventa l'attività che occupa la maggior parte del tempo e delle energie di alcune persone, allora siamo già passati un pochino al di là del limite. Ma io voglio fare una domanda a Valerio Sanf. Valerio Sanf, se noi ci sforziamo, alla fine corrispondenze numeriche le troviamo in qualunque nostra rappresentazione. Io davanti alla mia sinistra c'ho il numero 1 che segna la telecamera di sinistra di questo studio, potrei dire l'1 più il 2 che sta a destra, anzi, se tolgo la telecamera a destra che è 2, il numero 1 rimane l'11. Cioè, se forziamo, ognuno può trovare delle corrispondenze numeriche. Io volevo solo precisare che io non sto parlando male della numerologia, sto dicendo che la numerologia, appunto, ce l'è sciatta, priva di conoscenza, è veramente... Certo, questa qua è in paraticcio. La numerologia, se noi parliamo... Non si può licenziare come superstizione tutta la Kabbalah ebraica. Assolutamente, è una disciplina mistica profonda. Veramente... No, adesso... Però è vero che il numero è quantità. Se lei mi toglie una telecamera, è ovvio che cambia il sistema, cambia... Finalmente, ultimamente, gli algoritmi hanno portato la matematica su un piano del valore qualitativo, e quindi per Pitagora il numero aveva un sapore, un colore, dava sensazioni, era maschio, era femmina. Bisogna conoscere tutto ciò prima sorridere. No, guardi, non mi fraintenda. Una cosa è un sistema complesso, è questa, è un sistema complesso basato su una corrispondenza studiata, certificata, applicata, certo, che crea un pensiero. La Kabbalah è una corrente, l'ebraismo, interessantissima, che nasce nel Medioevo, che affonda le radici in un'infinità di altre discipline. Il Signore che mi dice la targa della macchina del mio amico, che è il figlio nato lo stesso giorno mio, corrisponde alla mia data di nascita, mi fa un po' sorridere, mi sembra un po' una forzatura. Certo. E certo, do ragione, certo, a Beppe Neri, che dice: quando dobbiamo cercare sicurezze le troviamo in questa sorta di aritmetica cintura di salvezza che ci danno i numeri, quando li usiamo un po' come meglio crediamo o meglio vogliamo. Ci fermiamo soltanto un istante per le informazioni del traffico, poi riprendiamo questa interessante attesa all'11 e 11 dell'11 11, che non accadrà assolutamente nulla, immagino. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix. 800 24 00 24, l'ultima tranche di Melog che ci separa dall'apertura del grande portale del grande 11. Molti lo stanno aspettando, però ancora sto aspettando qualcuno dei tanti che si sono prodotti in internet, sui social network, nei giornali, si sono fatti intervistare, si sono preparati, hanno il kit del trapasso pronto sotto braccio, che mi chiami e mi racconti cosa succede. Giuro, non li prenderò in giro, però sono curioso di capire cosa accadrà. Intanto sentiamo Antonio da Caserta, che apre un interessante spin-off della nostra trasmissione che noi avevamo soltanto sfiorato, ma lui vuole ritornarci su. Antonio. Sì, pronto. Qual è il problema? Buongiorno. Senta, volevo, poco fa lei ha detto oggi è la festa dei cornuti, probabilmente lo siamo tutti. Sì, beh, uno lo dice per scongiurare l'ansia. Latino mater sempre certa est. Io vorrei spendere una parola a favore di questa disgraziata categoria, gente che io so, conosco. Lei ne esente, naturalmente, sicuro al 100%. Come dice? Lei è sicuro al 100% di essere esente? No, io non volevo dire questo. Ah. Volevo dire, io conosco persone che hanno subito questa disgrazia lo so. Che si sono sacrificati moltissimo e alla fine non avevano una famiglia, perché, non lo so, quando non c'è il sangue c'è qualcosa che non va. Allontana. Allora, dico io, ma che cosa aspettiamo a fare lo stato di famiglia solo ed esclusivamente in base al DNA? Eh certo, se no così almeno si vede quelli che sono cornuti e quelli che in realtà hanno una moglie fedele, per questo. Perché se lei oggi va da NASA e dice, o da un laboratorio e vuole essere fatto il DNA, ma glielo fanno? Eh beh, certo. È un problema. Ha espresso il suo parere, che sia molto chiaro. Beppe Neri, sei l'unico clinico a questo tavolo, vuoi aggiungere qualcosa a quello che dice questo signore? Che in realtà lui cerca di fare una certificazione dell'infedeltà coniugale, solo questo gli interessa. Io capisco il punto di vista, ma apre un portale enorme, cioè apre un tema di bioetica e di tutela dei dati personali, della privacy, che è oggetto di discussioni estremamente approfondite e con pareri, secondo me, anche nella comunità scientifica, profondamente divaricati tuttora. Andiamo avanti. Oggi accade anche qualcosa di particolarmente interessante, qualcosa che lega uno dei personaggi più enigmatici, più interessanti della nostra storia, della nostra cultura, della nostra storia dell'arte, anche al numero 11. In particolare quello che sta accadendo ce lo racconta il dottor Tommaso Riccardi di Nervo, che è responsabile dell'attività espositiva della Reggia di Venaria e della mostra Leonardo, il genio e il mito. Cosa state facendo in questo momento? Buongiorno a lei. Sì, noi ci apprestiamo fra pochi minuti, fra una mezz'oretta, ad aprire una cassa che si è caricata di significati mitici, la cassa in cui è contenuto, climatizzato, in condizioni di sicurezza climatiche, igronometriche, fisiche, perfetta, l'autoritratto di Leonardo. Il mitico autoritratto, quello con la barba, no? quello in sanguigna, quello che conosciamo tutti, sì. Quello conservato dalla Biblioteca Reale, che arriva, esce dalla Biblioteca Reale e arriva alla Reggia di Venaria, qui a 10 km da Torino, per questa grande mostra che inauguriamo il 17. E cosa accadrà? Perché avete deciso di aprirlo proprio l'11-11 alle 11:11? L'11 e 11 è un gioco, però è venuto casuale che nella pianificazione delle operazioni si è poi scoperto che era venerdì 11 del mese di novembre del 2011 e allora non poteva essere che alle 11:11. Ma avete come la speranza, se l'aprite proprio al momento esatto, magari in quel momento l'autoritratto apre un portale, appare Leonardo, qualcosa del genere? Leonardo era un grande negromante, esatto, studioso di numerologia. Cioè, se ci facesse l'occhiolino sarebbe un bel regalo da parte di Leonardo. Beh, vediamo, intanto è interessante e mi diverte che comunque un significato profondo a questa data viene dato da persone che svolgono un'attività del tutto razionale e concreta e reale, come quella di portare un importantissimo dipinto da un posto all'altro. Certo. Grazie dottor Tommaso Cardi, auguro, mi dispiace non essere presente alla grande apertura nell'ora fatidica, perché lo siamo noi per voi. L'occhiolino Leonardo sarebbe stato molto interessante vederlo. Francesca Bellino, visto se ti ho detto il tuo ruolo è quello di rappresentare coloro che ancora credono nel grande portale, mi dici nel tuo libro qualche altra corrispondenza che tu hai incontrato con il numero 11? Beh, ce ne sono tante. La storia di Buenos Aires è piena di 11, è proprio quello che mi ha guidato in questa ricerca, che poi è un libro di 11 capitoli. Per esempio, per chiudere il discorso, non è il vestito bianco, sei vestita di viola oggi. Viola e verde. Non sei pronta al passaggio del portale, vai. Ma magari io l'ho già passato prima, no? Per esempio, ritornando sul tango, anche a Sor Piazzolla è nato un 11, l'11 marzo del 1921, ma dato che Once è un quartiere che rappresenta il grande bene e anche il grande male, perché è un territorio di grandi tragedie, c'è stato un attentato terroristico a Lamia, una tragedia nella discoteca Cromagnon nel 2004 dove sono morti tanti giovani, e anche tanti 11 che portano questo senso negativo. Negativo, come per esempio la cattura del nazista Eichmann proprio l'11 maggio del 1960, che poi è stato trasportato in Israele e portato davanti al tribunale sempre un 11 aprile del 61. Brutto per lui, ma quindi bello per gli altri. Molti nazisti si sono rifugiati a Buenos Aires, e questo ci fa capire quanto questa città sia ricca di storia, non soltanto storia dell'immigrazione, di tutti questi ebrei che sono arrivati lì, e quindi ecco l'11 in qualche modo ha proprio questa doppia faccia, questa dualità potente. Ma sai, molti oggi hanno anche detto l'11, l'attentato alle Torri Gemelle, era il volo 11, le stesse torri, come le corna che diceva prima professore, sono un 11 in realtà. E c'è anche un'altra cosa, non so se ricordi il terremoto annunciato a Roma, era l'11 maggio, è vero, poi l'11. Non c'è stato, però sempre un 11. Sentiamo Giovanni da Milano. Giovanni, buongiorno. Giovanni, c'è? Ah, è caduto Giovanni. Giovanni doveva dire semplicemente che oggi suo nonno compie 11 anni. 100 anni, non c'entra niente con l'11, ma evidentemente c'è stato. Ma tu te lo ricordi cosa facevi a 11 anni? No, 11 anni non mi ricordo assolutamente. Allora, mente ottenebrata e stavo in un momento molto delicato di passaggio. Giuseppe Neri, entrando proprio nel settore più tetro delle nostre ossessioni, esiste una corrispondenza patologica dell'ossessionato dai numeri, persone che nei numeri trovano una forma ossessiva per compensare alcune loro pulsioni? Perché mi sembra che alla fine oggi abbiamo preso a ridere, ci abbiamo sorriso, e secondo me non meritava altro che questo tipo di trattamento, questa data. Ci sono persone che realmente oggi con grande afflato e grande desiderio stanno lì a farsi conti per capire quanto la loro vita sarà corroborata e corrisposta da questo numero. Ma sai, il nostro cosiddetto benessere della mente deriva da un equilibrio delicato di tanti fattori, e uno di questi è la permeabilità del nostro sé. Alcune persone, diciamo, che hanno dei pori particolarmente ampi, e quando un bombardamento mediatico come questo diventa così pervasivo che tutti i media, i giornali, le televisioni e anche la radio ne parlano, il rischio che alcune persone, tra virgolette, più sensibili e più vulnerabili vengano captate e prese dentro è un rischio molto elevato, che può far scompensare qualcuno. Ecco, come avevamo promesso, abbiamo al telefono Salvatore da Napoli, che era andato a giocare all'otto e ci dice la situazione davanti alla ricettoria dell'otto. Salvatore, un attimo più avanti. Sì. Che sta succedendo? No, perché faccio fatica a parcheggiare. C'è il traffico. La fila, no, io sono a quartiere fuori rotta qua, ma okay, vedo già che c'è gente fuori. Quindi mi conferma che le ricevitorie a Napoli alle 11:11 sì, sono piene di gente. Addirittura una vecchietta mi ha detto che aspettano ancora 10 minuti perché loro vogliono giocare proprio alle 11:11. Non potranno farlo tutti, qualcuno lo farà e sarà fortunato. La sigla ci porta via. Grazie Beppe Neri, grazie Salvatore, spero farà in tempo a giocare. Grazie a Francesca Bellino, e anche noi attenderemo fiduciosi tra qualche minuto l'apertura del grande portale, e se spariremo non ci sentiremo lunedì. Se lunedì ci sentirete vorrà dire che il portale per noi non si è aperto. A lunedì. On est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.